6B. Ascolta e trasforma. Antonio manderà un mazzo di rose. Antonio e Stefano manderanno un mazzo di rose. Paola ordinerà un dolce. Paola e Luisa ordineranno un dolce. Elda imparerà lo spagnolo. Elda e Alfredo impareranno lo spagnolo. Gino domanderà una spiegazione. Gino e Anna domanderanno una spiegazione. Giada non abiterà al centro. Giada e Luca non abiteranno al centro. Gianni non informerà la polizia. Gianni e Silvia non informeranno la polizia. Maria non pagherà i danni. Maria e Carlo non pagheranno i danni. Pino non comincerà a lavorare. Pino e Anna non cominceranno a lavorare.